Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'ottava puntata estiva di Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Continuiamo a percorrere l'onda delle migliori puntate speciali andate in onda nei primi 4 anni e mezzo del nostro programma, con un flashback temporale che ci riporta indietro, attraversando un periodo, quello 2010-2014, contraddistinto fortemente dalla crescita dell'emigrazione italiana verso l'estero. Temi che abbiamo trattato all'inizio del 2012, quando abbiamo trasmesso una sintesi del convegno organizzato a Pesaro dai giovani imprenditori di Confindustria, interamente dedicato al tema della riattrazione dei cervelli e dei talenti dall'estero. Tra gli ospiti d'eccezione che ascolterete nuovamente on air ci sono anche Lorenzo Tione, il giovane italiano che ha progettato negli Stati Uniti il motore di ricerca Bing, e il cantautore e pianista Rafael Gualazzi. Vi ricordiamo anche che, sebbene la trasmissione sia in vacanza, restano attivi tutti i nostri canali social. Su Facebook e LinkedIn ci trovate come Fuga dei Talenti, mentre abbiamo deciso di prolungare a tutta l'estate l'hashtag Twitter Abolire gli Ordini, insieme alla domanda sul destino cui affidare queste lobby corporative residui di un'epoca passata. Che ne dite? Lasciamo in vita gli ordini professionali? Oppure li riformiamo drasticamente? Oppure ancora li aboliamo tout court per spianare finalmente la strada all'ingresso di forze giovani, fresche e più abituate alla concorrenza nella nostra economia? Diteci la vostra scrivendo a giovanitalenti@radio24.it. Ripeto, giovanitalenti@radio24.it. Ma andiamo ora a Pesaro per rivivere insieme la prima edizione di Little Italy Big Italians. Cominciamo ascoltando l'intervento di Lorenzo Tione, che spiega cosa significhi concretamente il termine ecosistema imprenditoriale innovativo in California. La parola ecosistema è la parola giusta, nel senso che trovi un gruppo di persone che per immediata impressione, immediato impatto, sono aperte, sono curiose, sono interessate allo scambio di idee, non hanno la presupponenza di pensare che loro non hanno niente da imparare da te. Indipendentemente dalla differenza di età, dalla differenza di rango, dalla differenza di esperienza. La presupposizione è sempre quella che da uno scambio di idee e da uno scambio di esperienze ci sarà un valore che viene ad entrambe le parti, e da un fatto che se qualcuno ti aiuta, ti consiglia, è il tuo mentor o quale che sia, quel karma di business in realtà ritorna in multipli. Prima di passare all'ospite successivo, così animiamo ancora più questo panel, volevo solo fare un paio di domande. La prima, se vuoi, te la cedo a Roberto, poi io ne ho una ancora per Lorenzo, però iniziamo già un po' il dibattito in modo da animare anche questo panel. C'è un aspetto che io, sul quale cerco anche di lavorare con il mio progetto, e cioè l'importanza dei modelli. Adesso noi molto spesso guardiamo con una certa sufficienza alla cultura americana, che è una cultura molto più giovane della nostra, su certe robe ci fa anche sorridere, no? Però noi siamo stati invasi da modelli anche nel passato, e ci rendiamo conto che questo comunicare comunque l'immagine della persona di successo, che noi abbiamo visto in attori, in pugili, e riguarda anche gli imprenditori. Io sono molto attaccato a questo perché credo che noi siamo stati invasi negli ultimi 20 anni da modelli devastanti, veramente. Cioè l'idea che uno può aver successo senza far niente perché sa apparire e basta, e che uno è uno sfigato se sa fare delle cose clamorose come essere un ricercatore. Quindi la domanda, soltanto per chiudere con Lorenzo, quanto è importante, se c'è stato un qualche cosa che ha anche influito nel tuo percorso, sia modello che magari anche mentori o padri ispiratori? Oh no, di sicuro, in realtà non sarebbe difficile contarli tutti, nel senso che essendo venuto a parte di questo ecosistema in Silicon Valley, il numero di persone con le quali ho interagito, dalle quali ho imparato, è stato enorme. Per dartene un paio, una delle persone dalle quali ho imparato di più è stato uno dei nostri investitori principali, che era il nostro board member per 2 anni e mezzo, Peter Thiel, fondatore di PayPal, successivamente il primo investitore in Facebook. Sicuramente una prospettiva l'aver interagito in stretta vicinanza con Peter è stato incredibile. Una cosa però che volevo notare è che, adesso non sapendo che cosa succede qui, gli ultimi anni, una delle ragioni per le quali comunque Silicon Valley e gli Stati Uniti hanno visto questa risorgenza di startup che appaiono a destra e a sinistra, comunque è il fatto che i modelli di successo, ai modelli di successo viene dato un sacco di spazio nei media, anche se si guardano ai casi più estremi, ovviamente, come Apple e Facebook. Mark Zuckerberg è stato Person of the Year, ma anche modelli, anche per casi più moderati di successo, dove comunque c'è una vera e propria, quasi come se fosse, se non altro in Silicon Valley, quasi come se fosse un'aura alla Hollywood dei fondatori di startups che ce la fanno. E quindi diventa ovviamente una questione di aspirazione, e questo porta più persone ad entrare in programmi di entrepreneurship o di cercare di farcela in questa maniera qua. Il numero di persone a Stanford e a Berkeley negli ultimi anni che si sono espresse, studenti che si esprimono come essere interessati all'imprenditoria è cresciuto di anno in anno, e di sicuro questa è stata una conseguenza del fatto che questi modelli sono sempre di più visibili ed ammirati. Lorenzo, una domanda invece che tocca un po' più direttamente il tema del convegno di oggi, cioè la rifocalizzazione, se vogliamo, del nostro sistema paese sui tanti talenti italiani di successo che sono all'estero, proprio partendo dal loro successo. Io l'ho sempre detto, anche perché mi occupo insomma di questo tema ormai da diversi anni, penso che quello che i giovani imprenditori stanno facendo adesso sia vitale, importantissimo, aggregando anche altre realtà nel nostro paese, cominciare a stabilire dei ponti che in qualche modo riportino indietro, se non fisicamente, quantomeno come contributo di idee, di testimonianze, anche di investimenti, i nostri migliori, i nostri veri talenti. Quanto secondo te è importante questo discorso, e quanto secondo te è in grado di dare all'Italia, al sistema paese Italia, quello scatto in più che la porta da questo periodo, diciamo, così difficile anche che stiamo vivendo, a rigenerarsi? Non voglio dare una risposta che sembra ovvia, ma di certo è importante creare un sistema di incentivi, ma non necessariamente di incentivi tangibili, ma un clima, un sistema che entusiasmi e motivi le persone, gli italiani che vanno all'estero e si trovano poi nella posizione di poter portare indietro in Italia capitale da un certo punto di vista, ma soprattutto idee, formati, energia, supporto per gli imprenditori che rimangono in Italia, essere coinvolti e lasciarsi coinvolgere in realtà italiane come advisors, come board members, come partners, come ce ne sarebbero un sacco, e cercare di creare un vero e proprio canale perché questo possa succedere. Poi ci sono italiani che in realtà lo fanno. Io ho avuto il piacere di conoscere per Luigi Zappacosta, uno dei fondatori di Logitech, che adesso è proprio in Italia a fare investimenti nel centro-sud, e lui pensa che questa sia una delle cose che adesso vuole fare, avendo fatto successo a Logitech in Silicon Valley. Se possiamo trovare modi di creare un sistema per cui portare queste rimesse all'interno dell'Italia diventa entusiasmante e motivo di espressione creativa e di innovazione anche per i nostri cervelli che sono all'estero, allora lo riusciremo a motivarlo in quella maniera. Tra l'altro noi usiamo spesso il termine cervelli, e questo secondo me a livello media ha un po' spostato il baricentro, il focus rispetto alla realtà vera, cioè non sono solamente cervelli inteso nel senso i ricercatori, ma studiando la realtà ormai dei tanti giovani italiani all'estero scopriamo che sono i professionisti di qualsiasi settore. Forse i ricercatori sono più colpiti percentualmente, proprio anche per le difficoltà che hanno a poter fare ricerca qui in Italia, ma la realtà è che abbiamo, io amo dire, una intera classe dirigente potenziale all'estero che può veramente darci una grossissima mano in questo periodo. E il tornare non è facile per molte persone, nel senso che ci sono realtà personali che esistono, per cui avendo passato un certo numero di anni all'estero, poi doverci si spostare, anche se hai un desiderio magari così di voler, quasi romantico, di voler ritornare in Italia, non è necessariamente facile. Ma poi ci sono comunque delle differenze sostanziali fra le posizioni e le condizioni sia economiche che di responsabilità che un giovane che magari ha passato 10 anni all'estero, 5-10 anni all'estero, ed è riuscito a costruirsi in un posto come gli Stati Uniti, le possibilità di tornare in Italia e mantenere quello stesso livello sia di compenso che di responsabilità è molto raro. Su questo poi arriviamo e bisogna veramente lavorarci. Io intanto introduco Rafael Gualazzi, che non ha bisogno di presentazioni. Il suo successo musicale è veramente sotto gli occhi di tutti, veramente complimenti Rafael, sei un caso di italiano che non solo sta realizzando veramente grandissime cose qui, ma le stai esportando fuori e stai portando l'italianità nel mondo, in Europa e nel mondo, quindi grazie davvero. 30 anni, hai conquistato Sanremo, hai sfiorato la vittoria all'Eurosong e stai facendo impazzire fans italiani, francesi e tedeschi. Domanda secca, in Italia con la passione e credendoci ce la si può fare? Ma io credo che la passione sia la cosa più importante con il lavoro, cioè il lavoro deve essere sempre passione e viceversa. Io, diciamo, mi sono sempre applicato alla musica, ho sempre, anche se spesso questo mestiere in Italia non è riconosciuto in determinate categorie. Posso fare una battuta qui? Sì, sì. L'abbiamo fatta prima, intervistando i nostri artisti all'estero, tutti dicono, ma in Italia quando dico sono compositore, sono cantante, sono ballerina, poi tutti la seconda domanda mi fanno è, sì vabbè, ma il tuo lavoro vero qual è? E questo concetto, Rafael, va cambiato. Bisogna cominciare a investire nell'industria culturale, vero? Assolutamente. Io credo che innanzitutto le stesse istituzioni scolastiche dovrebbero avviare al mestiere. Cioè, bisognerebbe essere consci del fatto che comunque questo va a diventare un mestiere, è una grande passione, è arte, ma insomma non si vive di aria, quindi è anche giusto, no, essere pragmatici un pochino in quello che è la propria professione. E poi insomma basti pensare anche al fatto che alcune categorie, tipo la categoria del musicista interprete, non autore, non compositore, forse non esistono nemmeno. Se Frank Sinatra fosse nato in Italia, forse aveva qualche problema a fatturare. Tu sei un caso di italiano che dall'Italia ha successo nel suo paese e va all'estero. Quali sono le principali differenze, anche a livello professionale se vogliamo, di valorizzazione del talento, di ecosistema del talento che noti qui e fuori? Diciamo che ad esempio in Germania ho visto che c'erano anche diversi luoghi, cioè non solo teatri, ma molti luoghi dotati, magari che erano fabbriche dismesse, poi riadibiti a concert hall, quindi con dei macchinari, insomma con degli impianti molto, voglio dire, all'avanguardia, e c'è grande sensibilità per la musica. Vabbè, in Francia, ad esempio, gli artisti vengono sovvenzionati se dimostrano di fare un tot di concerti, un tot di performance, di date, diremo noi. Se ricordo bene si chiama remittance du spettacle, cioè tu per i periodi in cui non lavori in Francia e sei comunque riconosciuto come una categoria degli artisti, hai una sovvenzione statale, ti permette comunque di poterti formare, di poterti impegnare su lavori successivi. Non, certo, hai la necessità del day to day, insomma, di come arrivare al giorno successivo. Certo, perché è importante poi, come in tutti i mestieri, anche aggiornarsi, mettersi in discussione, e credo che l'approccio collaborativo e propositivo sia quello più importante in questo mestiere, come in tanti altri, insomma. Quanto il brand Italia ci rende ancora vincenti all'estero? Cioè tu porti anche la tua italianità fuori, non porti solo la tua musica, porti anche il tuo essere italiano. Ma io credo che, forse dirò una banalità, ma siamo proprietari di un patrimonio culturale immenso e dobbiamo saperlo valorizzare. Tu lo vivi sulla tua pelle, cioè senti di essere anche guardato in un certo modo, insomma di essere considerato in un certo modo perché porti qualcosa di italiano. Ma io vedo sinceramente molta ammirazione. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. Proseguiamo nella sintesi della conferenza Little Italy Big Italians, dedicata ai tantissimi giovani talenti italiani che stanno facendo grande il nostro paese all'estero. Il convegno, vi ricordiamo, è stato organizzato dai giovani imprenditori di Confindustria a Pesaro e c'eravamo anche noi. Vi proponiamo ora un estratto dal secondo panel. Sul palco Andrea Goldstein, senior economist dell'Ocse, a seguire Ermanno Vitali, vice direttore di FAM Asia, succursale cinese di un'azienda italiana, e Vivek Jacob, CEO di Banyan Tree Holdings. Il dibattito inizia con Andrea Goldstein che ci parla di rientro dei cervelli. Sentiamo. L'esperienza della famosa operazione di rientro dei cervelli lanciata dal ministro Moratti qualche anno fa, per esempio, è stato un flop micidiale. Anche se il governo è rimasto più o meno lo stesso, e quindi non non si può neanche addebitare alla politica di per sé, quella più piccola, la responsabilità, ma è stato un flop micidiale, perché sono stati pochissimi quelli che dopo questi 4 anni di contratto, pagati oltretutto anche bene per gli standard dell'università italiane, hanno poi deciso o sono stati assunti e quindi hanno contribuito alla forza dell'università italiana. C'è un quarto maniera di vedere questo fenomeno, è quella dell'attrattività dell'Italia per i cervelli stranieri. E da questo punto di vista ovviamente la situazione è forse ancora più tragica rispetto a quella della capacità italiana di tenere i cervelli italiani in Italia, che forse non dovrebbe neppure essere appunto l'obiettivo. La circolazione dei talenti, io conosco un pochettino il caso degli economisti, ci sono nelle università americane, in qualsiasi università americana, che sia Harvard, che sia Princeton, Yale, qualsiasi, ci sono nei dipartimenti di economia 2 o 3 italiani, come minimo. 2 o 3 italiani che spesso e volentieri lavorano con tanti italiani o che sono a loro volta all'estero oppure che stanno in Italia. Quindi questo crea un circolo virtuoso di circolazione. Alcuni di questi poi tornano, oltretutto. Ci abbiamo tanti tabellini, per esempio, un esempio di un accademico italiano che è andato all'estero, insegnava a UCLA e poi è tornato in Italia. E come lui, Tito Boeri è un altro esempio, ce ne sono tanti altri. Quindi i meccanismi virtuosi ci sono, quindi il talento c'è. Ora, la capacità italiana in compenso di attrarre i talenti, i migliori talenti o i talenti comunque, in particolare dei BRIC, è scarsissima, anzi ancora peggio, visto che comunque l'università italiana è buona, tant'è che perché poi abbiamo tanti talenti in fuga? Perché questi talenti sono così bravi quando sono formati in università italiane che riescono ad andare nelle migliori università americane a fare il PhD e sono così bravi che poi ci rimangono. Se fossero da mezze schiappe, nessuno li prenderebbe a Yale e nessuno li prenderebbe poi a Princeton per insegnare. Ora, noi riusciamo ad attrarre, per esempio, per i nostri programmi di dottorato in Italia, studenti cinesi, indiani. Il problema è che evidentemente sono abbastanza bravi da venire, abbastanza bravi da fare questo PhD. Questo PhD è abbastanza riconosciuto da far sì che poi quando hanno finito il PhD, che ne so, alla normale piuttosto che non so, ovunque, al Politecnico o a Bocconi, a loro volta partono. Quindi il problema della attrattività è un problema fondamentale. Della capacità anche di trattenere. Ermanno Vitali invece è un italiano che ha scelto di vivere in Cina. Io trovo la sua storia molto affascinante, anche perché lui è andato lì per fare un lavoro importante per un'azienda, cioè aprire uno stabilimento produttivo che fosse in grado di servire il mercato asiatico. Che cosa è successo dopo e la tua esperienza, cioè di italiano che ha deciso di, almeno momentaneamente, di lasciare l'Italia? C'è qualcuno che parla cinese qui? Non ancora. Ecco, questo credo sia un aspetto importante. Ho letto poco tempo fa che la lingua più parlata al mondo nel business non è l'inglese, come si potrebbe pensare, ma il cinese. Quindi credo che sia una cosa importante che vorrei suggerire è: se in azienda non tutti possono fare dei corsi di cinese, quindi non tutti possono studiare il cinese, io lo parlo poco e male. Però credo che avere una persona che parli il cinese, che lo abbia studiato, sia fondamentale. La mia esperienza è molto semplice. Ho scelto di andare in Cina per l'azienda con cui lavoro, l'azienda di famiglia. Io sono della seconda generazione e ho scelto di andare in Cina perché in famiglia ho sempre avuto l'impressione che la Cina fosse un paese stupendo. Nei viaggi in cui è tornato mio padre e raccontava della Cina, ci ha sempre raccontato a casa che i cinesi sono persone molto cordiali, un paese di forte sviluppo, un paese stupendo. Poi tra l'altro, infatti, ho sposato una cinese, ho 2 bambine nate a Nanchino e vivo in Cina da 5 anni e mezzo. E l'esperienza cinese ci ha comunque permesso di crescere, perché siamo presenti in Cina dal 2006, e il fatturato del gruppo è cresciuto di oltre il 50% in 5 anni. La Cina oggi rappresenta il 10% del fatturato. Abbiamo incrementato anche il numero degli addetti. Oggi siamo circa 500 persone. Comprese le persone in Cina. Quante sono in Cina? In Cina 100. Dopo questa esperienza, e mentre stai ancora continuando questa esperienza, anche perché dici qui davanti a tutti che tornerai in Italia? Sì, tornerò. Ecco. È già in programma di rientrare in Italia con la famiglia. Ecco, magari non ti costringiamo a dire quando. No, però vorrei dire che ritorno perché c'è un nuovo progetto. è partito, è stato avviato un nuovo progetto di investimento e mi è stato chiesto di tornare per supportare, avendo accumulato un certo tipo di esperienza in Cina, quindi di dare supporto. Altrimenti vi dico onestamente che sarei rimasto in Cina. Ecco, ma alla luce dell'esperienza cinese, ragionando come se per un momento fossi diventato, come se non fossi più italiano, che cos'è che frena un imprenditore cinese a entrare in Italia, a venire in Italia, a fare investimenti in Italia? Sicuramente un aspetto importante è la difficoltà burocratica. In Cina non è complesso aprire un'azienda, è molto semplice, anzi, penso lo sanno tutti, ti corrono dietro per investire, per aprire. C'è la fila davanti allo stabilimento per chiederci di investire in altri parchi industriali. Questo forse è un aspetto che... Sensazione che non si ha in Italia. È davvero così semplice fare affari altrove rispetto all'Italia? In Italia quello che io trovo aberrante è il numero di professionisti che mi devo portare dietro e mantenere per far qualsiasi stupidata. Cioè mi fa imbestialire. Cioè sono... E costano, ci avrei un cuoio capelluto ben diverso. Ma questo sono tutti i soldi. Cioè no, in Italia ci sono dei costi ombra, però devo dire che in America io ho il problema contrario, sono estremamente superficiali. Io non sono d'accordo con il fatto che il mondo accademico americano è così. Io non sarei diventato un imprenditore, sarei continuato nella ricerca se non avessi trovato i muri che ho trovato nell'accademia. Dopo gli studi negli Stati Uniti. Credo che ci sono diverse difficoltà. In Italia siamo particolarmente bravi con il fisco, cioè questo è un problema enorme. La paura di sbagliare. Libera la sedia, è finita la commedia, è libera la sedia, che per noi è una tragedia. Libera la sedia, è finita la commedia, è libera la sedia, che per noi è una tragedia. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti, potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it e le pubblicheremo sul web. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13:30, ovviamente restate sintonizzati su Radio 24.